non vendermi, amore mio. Non vedi, sono quello che non hai. Credimi, è più facile lasciarsi andare che cercare di capire. Tra le cose che non hai, mi ritrovo proprio lì. Un po' mi viene naturale, un po' sarai tu che lo vuoi fare. Tra le cose che non hai, potrò vivere così, laddove nascono i pensieri, e dove oggi più di ieri. Non vendermi, amore mio, non senti, sono quello che non hai. Insegnami a non aver paura e a starti lì vicino, lì, così, così. Tra le cose che non hai, non mi cambiare mai. Quando piangi tu per noi, mentre mi difendo dal tuo amore. Tra le cose che non hai, sono un vergine, ma dai, puoi provare ad andar via, o a seguirmi sempre, o a seguirmi sempre, e poter dire le più stupide parole d'amore, e guardarti ridere di me, anche se il mio cuore batte forte e vola via così, e mi fa tremare, mi fa tremare davanti a te. Anche te. Sono quello che non hai.